Il miracolo, un veicolo imperfetto di rivelazione. Ci è un proverbio che troviamo per due volte nel libro omonimo della Bibbia, che ci vuol fare capire una verità importantissima e dice: Ci è una via che all'uomo sembra diritta, ma la sua fine sfocia in vie di morte. Proverbi 14 e 12 e 16 e 26. La verità che possiamo trarre da questo proverbio è che l'uomo è un essere limitato nelle sue valutazioni. Pensa che una cosa sia giusta, ma poi si rende conto, spesso con terrore, che è sbagliata. Noi sbagliamo nelle nostre valutazioni. Sbagliamo a comprare un mobile, un libro, una macchina e, se vogliamo, spesso anche nello scegliere il nostro partner. Pensavamo che fosse secondo il nostro ideale, ma poi ci rendiamo conto di essere stati ingannati dalla nostra emotività. Ma in questa vita tutto questo è risolvibile. Almeno rimediabile. Il mobile, il libro e la macchina si cambiano, mentre per il nostro coniuge, con un po' di buona volontà, si possono mettere a posto tante cose. Tuttavia, cinca, è una cosa che non è rimediabile. Il nostro futuro nell'aldilà. Dopo la morte viene il giudizio, dice Dio nella sua parola. Eterna e immutabile. Qualsiasi cosa abbiamo fatto, di bene o di male, ne raccoglieremo i frutti. Non si può tornare indietro per rimediare. Perciò, se abbiamo percorso una strada sbagliata che ci ha portati alla condanna eterna, non vi è più speranza. Così ci rendiamo conto di come sia importante valutare bene le cose spirituali. Contemporaneamente, però, sappiamo di essere limitati, soggetti a sbagliare, per cui se prendiamo la cosa sul serio, la prima reazione è quella di cadere nella disperazione. Ma la Scrittura ci offre una speranza. Dio dice di andare incontro alla limitatezza dell'uomo, rivelandosi. Sì, perché l'uomo ha bisogno che Dio gli si riveli. Senza questo, l'uomo rimarrebbe eternamente nel buio. Ma che cosa intendiamo per rivelazione? Per rivelazione intendiamo l'azione per mezzo della quale Dio si fa conoscere alla sua creatura. L'errore fondamentale dell'uomo, credente e non credente, sta nel non ricevere sufficientemente le rivelazioni che Dio gli dà. Non è a caso che il preambolo stabilito dall'Eterno alla prima emanazione della legge, avvenuta sul Monte Sinai, sia espresso dal verbo ascolta. Se l'Eterno ordina di ascoltare, è perché egli parla. Se egli parla è perché vuole farsi conoscere, vuole far conoscere i suoi pensieri e la sua volontà. Come Dio parla? In che modo vuole farsi conoscere? In molti modi e in molte maniere. I figli di Dio leggono e predicano il messaggio di Cristo, ma esso non è l'unica fonte della rivelazione di Dio, anche se ogni vera rivelazione non può andare in disaccordo con ciò che è scritto. Una prima conclusione è questa che non deve essere dimenticata. Perché sono troppi coloro che dicono di annunziare la volontà di Dio, ignorando la Scrittura, pervenutaci per mezzo dello Spirito Santo. Leggiamo nella lettera agli Ebrei questa testimonianza. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Ebrei 1:1 a 2. Dunque, Dio ha parlato molte volte e in svariati modi mediante i profeti. E poiché un profeta è colui che annuncia, non necessariamente si tratta di uomini. Perciò Dio parla anche tramite la creazione, la coscienza, come anche mediante i non credenti. Per esempio, il re della tribù di Giuda, Giosia, un vero credente che amava l'Eterno, non ascoltò Neco, un re pagano di Egitto, che lo consigliava, da parte di Dio, di non fargli guerra, e per questo morì ucciso in battaglia. 2 Cronache 35:22. Dio parla anche tramite i fatti della vita, come accadde al profeta Geremia, che fu condotto da un vasaio dove ricevette la rivelazione, o perfino mediante una cintura. Dio parla, egli non è condizionato da nessuna forma, e in questa prospettiva che dobbiamo vedere anche i miracoli. Essi sono uno dei mezzi di rivelazione e di comunicazione, ma non hanno nulla di particolare, anche se a noi fanno più effetto. Cos è un miracolo? L'opinione generale è che sia un atto straordinario di Dio, che si inserisce nella vita normale dell'uomo, e miracolo un cieco, che veda improvvisamente, e un miracolo che uno zoppo improvvisamente corra. Su questo non ci piove. Ma l'errore sta nel definire miracolo solo queste cose così evidenti e straordinarie ai nostri occhi. Prova ne è l'esagerato numero di persone, convinte che i miracoli non succedano più. Ma Dio opera ancora miracoli oggi e a non vederli è solo chi non è nato di nuovo, come disse Gesù. Chi non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Chi non ha realizzato la nuova nascita, chi non ha lo Spirito Santo, non è in grado di vedere i miracoli di Dio. Anche il caso, la combinazione di un evento, è un miracolo. Nel secondo libro delle cronache leggiamo della predizione della morte del re Acab da parte di un profeta, la quale avvenne proprio del tutto, accidentalmente. Un soldato tirò a caso una freccia, la quale si infilò tra le maglie dell'armatura di Acab, che morì dissanguato. 2 Cronache 18:19-33. Qualcuno ha definito il caso un avvenimento dove Dio desidera rimanere nascosto. Ed è proprio così. Ne è un esempio il luogo della nascita di Gesù, che apparentemente è una coincidenza, ma alla luce delle profezie fatte al riguardo, è stato uno straordinario miracolo. Quando Maria era incinta, abitava a Nazaret, ma per un censimento indetto dai Romani, Gesù nacque a un centinaio di chilometri nel paesino di Betlemme, come era stato profetizzato secoli prima dai profeti. Nessuno lo ha notato, neppure Giuseppe e Maria erano coscienti di quello che stava succedendo, eppure per tutta una serie di avvenimenti e coincidenze, avvenne uno dei più grandi miracoli della storia. Dio si fece uomo. Il greco, la lingua nella quale è stato redatto il Nuovo Patto, usa 3 parole per miracolo. Terata, atto straordinario, tradotto nelle nostre Bibbie con prodigi. Semeia, che significa segno, parola che troviamo nei Vangeli. Dunameis, potenza. Con queste 3 parole possiamo dare una definizione più completa della parola. Essi, 1, sono atti straordinari. 2, sono dei segni, cioè delle dimostrazioni. 3, sono opere potenti, come per esempio la tempesta sedata. L'Apostolo Pietro applica tutte e 3 queste parole a Gesù nel suo primo messaggio cristiano che troviamo nel libro degli Atti 2:22. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi, mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui. Punto quest'uomo. Lo uccideste. A sfuggire alla maggioranza delle persone è il compimento quotidiano dei miracoli, nascosto però agli occhi dell'incredulo, perché, come ha detto Gesù, è cieco. Non è forse un miracolo che un essere umano egoista come è per natura possa amare Cristo e il prossimo? Se non fosse che Dio ha posto l'amore nel suo cuore, nessuno potrebbe amare Cristo quale Salvatore e Signore. Non è forse un miracolo che un figlio di Dio per la fede in Cristo rifiuti il piacevole e seducente peccato? Infatti, non è merito suo se odia il peccato, ma è lo Spirito, quello santo che abita in lui. Tutta la vita di un cristiano che ami Gesù è un miracolo ed è uno dei grandi veicoli mediante il quale Dio si rivela. Ed è questo ciò che ha detto l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il Suo Figlio per essere l'espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato in questo modo, anche noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il Suo amore è perfetto in noi. 1 Giovanni 4:10-12. Nessuno ha visto Dio. Ma se i figli di Dio si amano di quell'amore che non è il frutto di un sentimento umano, allora gli increduli conosceranno che esiste veramente Dio. In effetti non sono poche le persone che sono state attratte dal comportamento d'amore dei figli di Dio. Ogni giorno vengono uccisi e torturati in vari paesi del mondo dei credenti che professano la loro fede in Cristo, Alcuni dei loro aguzzini, tuttavia, nel vedere come muoiono, pongono a loro volta fede in Gesù per la salvezza della propria anima. Uno di questi disse: «Vedi che il tuo Dio è meno potente di me? Io sono più forte perché ti posso torturare». «Ti sbagli», rispose il cristiano, «sono io il più forte. Mentre tu mi odi, io ti amo». Molto probabilmente anche l'apostolo Paolo è stato toccato nel vedere Stefano, morente, implorare il perdono per coloro che lo lapidavano. Il vero amore è più forte dell'odio. Esiste però un dubbio. Noi sappiamo che in tutte le cose esiste la contraffazione, la falsificazione. E così, anche nel campo spirituale, si falsifica la potenza di Dio. Non per nulla, Lutero ha definito Satana la scimmia di Dio. Se confrontiamo le opere di Gesù secondo la descrizione contenuta nel libro degli Atti 2:22 con le opere dell'uomo del peccato, il figlio della perdizione, descritta nella seconda lettera ai Tessalonicesi, notiamo che si tratta delle stesse opere 2:29. Anche al tempo di Mosè, i magi fecero mutarono in serpenti i bastoni e l'acqua in sangue, Esodo 7:8-13. Sì, una verità, non sufficientemente affermata, è che anche Satana può fare dei miracoli e compiere opere straordinarie. Come allora riconoscere il miracolo procedente da Dio e quello che procede dal diavolo? La risposta si trova nel libro del Deuteronomio 13:1-4. Se sorge in mezzo a te un profeta o un sognatore di sogni che ti proponga un segno o un prodigio, e il segno o il prodigio di cui ti ha parlato si avvera e dice: «Seguiamo altri dei che tu non hai mai conosciuto e serviamoli», tu non darai ascolto alle parole di quel profeta o di quel sognatore di sogni, perché l'Eterno, il vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se amate l'Eterno, il vostro Dio, con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima. Seguirete l'Eterno, il vostro Dio, Lui temerete, osserverete i Suoi comandamenti, ubbidirete alla Sua voce, lo servirete e rimarrete stretti a Lui. Il miracolo che procede dal vero Dio condurrà sempre il credente a porre fede in Cristo, cioè Yahweh, e a osservare i Suoi comandamenti. Del resto, Gesù mise in guardia i Suoi discepoli dai falsi profeti, invitandoli a considerarne i frutti. Per frutti, in questo caso, non intendeva tanto il loro operato in sé, perché anche i falsi profeti compiono dei miracoli, ma piuttosto il risultato. Se, dopo il miracolo, il profeta allontana le persone dal porre fede unicamente in Cristo, se Cristo non è il solo Signore da pregare e la sola verità da seguire, allora è indispensabile evitare di seguirlo. L'apostolo Pietro, che di miracoli ne aveva fatti, ordinò ai primi cristiani ebrei di prestare fede, sì, ai miracoli, ma ancora di più alla parola profetica, a ciò che stava scritto nella parola di Dio, cioè la Bibbia. 2 Pietro 1:15-21. Perché essa era da lui ritenuta più ferma e più sicura. Viviamo in un'epoca nella quale l'uomo chiede un segno, un miracolo, meno anche se a dire il vero questo atteggiamento esisteva pure al tempo di Gesù e dell'apostolo Paolo, ma il volere di Dio è e sempre sarà che l'uomo ponga fede in ciò che egli ha lasciato scritto. Il miracolo infatti è un veicolo imperfetto di rivelazione, perché anche il diavolo lo compie, mentre la parola di Dio è il veicolo perfetto per eccellenza. Chi è saggio non si lascerà sedurre dai miracoli, ma li valuterà alla luce della parola di Dio e seguirà solamente e totalmente Cristo Gesù, il Figlio di Dio. 2012122 Ellero.